Maria, Maria, lava messa prima, lava messa prima per andarsi a confessare. Marito geloso si veste da frate, si veste da frate per andarla a confessare. Suditemi, o donna, i vostri peccati. Suditemi, o donna, i vostri peccati. I miei peccati sono grossi e mondani. Né preti e né frati non li posso confessare. Se non li confesserete, l'inferno morirete. Se non li confesserete, l'inferno morirete. Né figli né donne, l'inferno non vanno. Mariti gelosi, l'inferno moriranno. Ma ditemi, o donna, la figlia di chi siete? Ma ditemi, o donna, la moglie di chi siete? Son figlia di un ricco mercante, la moglie di un frate burbante.